Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Intendo scusarmi con i cittadini, anche con le persone che sono in questi giorni a Roma, venendo da altre parti d'Italia e del mondo, per i disagi inaccettabili nel nostro trasporto locale. E già, Marino, l'avete sentito, molto costernato, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è l'ennesimo guaio. C'è da sorridere, naturalmente, per lui e per i cittadini romani e per i turisti non è sicuramente piacevole, ma un ennesimo guaio sul sindaco della capitale, questo caos dei trasporti che in realtà si trascina da settimane, ne succede una ogni giorno, lo sciopero bianco, poi la metropolitana che va con la porta aperta, i ritardi, le file, il caldo, poi potete immaginare, naturalmente non è solo a Milano questo caldo, poi tutta Italia. E quindi parleremo sicuramente di questo quando faremo il punto politico tra poco con Fabrizio Forchevici, editore del Sole 24 Ore. Come sempre, tutti i venerdì facciamo un po' il punto della situazione, quanti argomenti anche questa settimana, le intercettazioni, le presunte intercettazioni che riguardano Crocetta. Abbiamo avuto qui Effettonote praticamente tutti i protagonisti della vicenda, Crocetta stesso, il suo avvocato, anche l'Espresso ieri, quindi avete avuto modo di sentire un po' tutte le parti. Di questo parleremo nel fare appunto il bilancio della settimana politica, anche della questione tasse, perché si continua a dibattere. Sapete che Renzi aveva annunciato questa rivoluzione copernicana sulle tasse, annunciando in particolare che eliminerà l'IMU dal 2016. Molti non erano d'accordo, soprattutto nella sinistra PD. Voi ritenete che questa sia effettivamente una cosa che vi, dalla quale trarreste beneficio? Sareste favorevoli quindi all'eliminazione dell'IMU dall'anno prossimo? 349-238-6666 il numero per i messaggi, oppure la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi, lo sapete. Ci occuperemo anche della svolta della Turchia nei confronti della guerra all'ISIS, dell'omicidio della povera tabaccaia di Asti. Si è scoperto che il movente era in realtà una rapina, c'erano state mille ipotesi perché veramente era stato un omicidio fatto con un'efferatezza incredibile, 44 coltellate. Ce ne occuperemo, anche il meteo, per capire se effettivamente questo caldo, che qualcuno pochi fa piacere come me, dovesse invece attenuarsi nei prossimi giorni. Allora, per i vostri interventi, ve l'ho detto, pagina Facebook di Effetto Notte, 349-238-6666. Avete sentito Marino che si scusava con i turisti e i cittadini, ma come c'è da scusarsi anche per Pompei, per quello che è successo e di cui parleremo più tardi. Vi racconto la giornata. La tragedia di Bari: esplode una fabbrica di fuochi d'artificio, le vittime sono 7, diversi i feriti. La tabaccaia uccisa ad Asti, il suo assassino confessa, è un uomo incensurato, un movente dell'omicidio sarebbe la rapina. Roma: il sindaco Marino si scusa per il caos trasporti con cittadini e turisti e caccia l'assessore e i vertici ATAC. Pompei chiusa per assemblea, restano fuori dall'ingresso 2000 turisti, il ministro Franceschini commenta, è un danno incalcolabile per l'Italia. Guerra al terrorismo: la Turchia lancia l'operazione anti-ISIS, 35 jihadisti uccisi, Erdogan, il presidente, dice la base NATO di Incirlik aperta agli Stati Uniti. E per il ciclismo al Tour de France, Nibali vince in solitaria alla Tousserie. Partiamo quindi dallo scoppio che c'è stato in provincia di Bari di una fabbrica di fuochi artificiali che ha causato 7 morti e diversi feriti. Vittime e feriti in seguito a una fortissima esplosione che ha fatto saltare in aria una fabbrica di fuochi d'artificio a Modugno alle porte di Bari. Ci vorranno almeno 24 ore finché i vigili del fuoco possano accedere in sicurezza alla struttura che è crollata, ha affermato il procuratore di Bari Giuseppe Volpe. Solo allora, ha aggiunto, si potrà fare un bilancio completo delle vittime, che ad ora appare tragicamente alto. In fabbrica erano presenti una quindicina di operai impegnati a pieno ritmo nella fabbricazione di materiale pirotecnico in vista delle feste patronali. L'esplosione è stata così forte da essere avvertita in tutto il paese e anche negli abitati vicini. Lo spostamento d'aria è stato pazzesco, raccontano i testimoni, che riferiscono di 3 distinte esplosioni in rapida successione. La zona è stata completamente isolata e interdetta. Gli artificieri hanno avviato delle deflagrazioni controllate per disinnescare tutto il potenziale esplosivo contenuto nella struttura, mentre dall'alto 2 aerei Firebus domavano le fiamme propagatesi al boschetto vicino. Secondo una prima ricostruzione, a esplodere per primo sarebbe stato un furgone, successivamente la deflagrazione si sarebbe estesa a tutta la fabbrica. Sergio Navra, di 24, il Sole 24 Ore. E sempre restando sulla cronaca, vi dicevo, è arrivata una svolta il caso dell'omicidio della tabaccaia di Asti, sul quale si erano fatte molte ipotesi per la crudeltà e l'efferatezza dell'omicidio, escludendo proprio quella della rapina, che invece si è rivelata quella reale. I carabinieri hanno fermato infatti nel pomeriggio un uomo che ha confessato l'omicidio di Maria Luisa Fassi, di 54 anni, uccisa 2 settimane fa, lo ricordate, con 44 coltellate. Secondo le prime ricostruzioni emerse dall'interrogatorio condotto dal PM Tarditi, si tratterebbe di una rapina finita in modo tragico. L'assassino, presunto assassino, è Pasquale Folletto, magazziniere di 46 anni, poi ce ne occuperemo. E adesso invece occupiamoci della difficile situazione dei trasporti a Roma e del suo sindaco, naturalmente Marino, che si scusa, avete sentito, con cittadini e turisti. Intendo scusarmi con i cittadini e anche con le persone che sono in questi giorni a Roma, venendo da altre parti d'Italia e del mondo, per i disagi inaccettabili nel nostro trasporto locale. Credo che sia necessario un immediato cambiamento di rotta. Dopo le polemiche per le inefficienze delle ultime settimane, il sindaco Marino fa mea culpa e annuncia una rivoluzione per il trasporto pubblico di Roma, un rinnovamento che passa attraverso l'azzeramento del CDA dell'ATAC e l'allontanamento dei manager responsabili dei disservizi. Grazie all'intervento della regione, poi l'azienda del trasporto pubblico capitolino verrà ricapitalizzata e si cercherà un partner privato, ha aggiunto Marino, che in conferenza stampa ha anche chiesto all'assessore ai trasporti, il renziano in prota, di formalizzare le sue dimissioni annunciate nel pieno della bufera di Mafia Capitale. Piccata la reazione del diretto interessato, Marino è stato scorretto, era stato lui a chiedermi di aspettare, ha fatto sapere in prota. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E anche Pompei, come vi dicevo all'inizio, e i turisti degli scavi naturalmente non se la passano per niente bene. Vedo già i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effettonote al 349-238-6666. Cristiano che scrive: la coincidenza è senz'altro amara. Pompei è una stupenda maledizione a cielo aperto, una riserva di rispetto ai sindacati la lascio, ma sono d'accordo con Franceschini. E Ilaria dice: ma è mai possibile che le sovrintendenze non fossero al corrente della riunione sindacale? Qual è la questione? Che oggi Pompei era chiusa per assemblea sindacale ed è dovuto andare il sovrintendente a aprire lui stesso i cancelli. Il ministro Franceschini ha detto: la chiusura di Pompei è un danno incalcolabile che fa male soprattutto al paese. Così Armando Massarenti, direttore del domenicale del Sole 24 Ore, filosofo, che ti viene da pensare? Noi che abbiamo questo patrimonio inestimabile, ce lo continuiamo a ripetere ma non siamo capaci di salvaguardarlo, di valorizzarlo. Guarda, io ho lanciato un tweet domenica scorsa per promuovere il domenicale. Avevamo la rivoluzione copernicana in copertina. Il tweet diceva: la vera rivoluzione copernicana non è quella delle tasse in di questo Renzi, paese, no? È rimettere coi piedi per terra la nostra risorsa principale, che è appunto la cultura, quella di cui parliamo poi come Sole 24 Ore appunto tutte le settimane. E questa è la rivoluzione copernicana che sembrava essersi avviata faticosamente negli ultimi anni, perché Pompei è sempre stato al centro delle cronache. Noi abbiamo pubblicato poche settimane fa, sto parlando del ormai è passato un mese, ma insomma il 14 giugno pubblicammo proprio 2 pagine proprio per render conto di come Pompei in fondo fosse stata messa su un binario molto promettente dal punto di vista di tornare ad essere appunto all'altezza della grande fama internazionale che ha. Perché noi questo problema abbiamo in Italia, che riusciamo a rovinare anche attraverso episodi siamo come questo, è qualche cosa che nel mondo, tutto il mondo ci invidia. 2 anni fa il British Museum di Londra ha fatto dei veri guadagni stratosferici, anche con un video, tant'è che io avevo titolato una della nostra rubrichina Il Graffio Pompei batte Checco Zalone, perché è vero, in un certo senso questo video aveva fatto dei guadagni notevolissimi, essendo diffuso in tutto il mondo, ma non solo, anche la stessa mostra è stata una grande operazione di grandissima cultura, ma anche dal punto di vista proprio della redditività culturale. Il British si era guadagnato tutti questi soldi, esatto. Questo successo, semplicemente mandando un video degli scavi, Pompei. Noi che ce l'abbiamo. E noi che ce l'abbiamo facciamo sempre la figura appunto solita, di cui purtroppo ormai l'immagine italiana nel mondo è questa, cioè di coloro che hanno questi tesori ma che purtroppo non riescono a hanno poi invece questa inefficienza che sembra cronica. Quindi un episodio che forse può anche essere piccolo nel suo genere, però ha ragione Franceschini a dire che è molto molto dannoso. 2000 turisti che erano 2000 turisti, diciamo, certo, no, ma che è andato meno male che aveva le chiavi, esatto. Però è una cosa che ha un grandissimo valore simbolico, proprio perché noi dobbiamo imparare da questo che bisogna assolutamente cambiare strada e dobbiamo essere appunto all'altezza come paese della cultura che tutto il mondo ancora ci riconosce, con dei simboli di cui poi Pompei è il primo, ecco, è uno. Potremmo quasi vivere di rendita, e su questa considerazione amara, con qualche barlume di speranza, sempre lo dobbiamo fare un po' retoricamente. Anche ringrazio Armando Massarenti. Ciao Armando. Ciao, buona serata. Grazie. Parliamo adesso di giustizia, tutt'altro tema. Con la riforma del processo penale, un emendamento prevede una stretta sulle intercettazioni. Secondo i critici, in questo modo si vuole mettere il bavaglio alle inchieste giornalistiche. Governo e maggioranza promettono correzioni al testo, ma la polemica è di quelle destinate a durare. Sotto accusa un emendamento alla riforma del processo penale, a firma Pagano dell'NCD, che prevede una stretta sulle intercettazioni con pene sino a 4 anni per video ed audio rubati. Una norma che, secondo i critici, andrebbe a penalizzare in particolare quel tipo di inchieste giornalistiche stile Report o Le Iene. No al bavaglio, attaccano allora dal Movimento 5 Stelle, un testo che non piace anche a Sel, così Farina. È un qualche cosa che assomiglia molto al bavaglio, alla stampa, alla libertà di informazione. Sì, l'ecologia e libertà darà battaglia. Perplessità sulla norma dallo stesso ministro della giustizia Orlando. Riserve di carattere generale, spiega il guardasigilli, va specificato che si va a colpire chi carpisce le informazioni in via fraudolenta. Sono cose fuori dal giornalismo, riguardano i privati, puntualizza però la Ferranti, PD, relatrice del provvedimento. Quello che noi vogliamo evitare è che ci sia la pubblicazione di conversazioni private che volte solo a danneggiare, non a informare. Non c'è nessun bavaglio, anzi una norma che tutela la corretta informazione e rivendica dall'NCD Lupi. Sul tema interviene però il responsabile giustizia del Partito Democratico Ermini, che annuncia dalle norme che puniscono con il carcere saranno esclusi i professionisti. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora parliamo di Eternit, perché è stato sospeso il processo bis per il giudice, l'ex titolare non può essere processato due volte. Finisce la Corte Costituzionale il processo Eternit bis. Il GUP Federica Bompieri ha sollevato una questione di costituzionalità. Secondo il giudice, l'ex titolare della Eternit, lo svizzero Stefan Schmidaini, non può essere processato due volte per gli stessi fatti. Sulla base di questo principio, chiamato ne bis in idem, il processo di Torino è stato sospeso in attesa di un pronunciamento della Corte Costituzionale. Nel procedimento del capoluogo torinese, il magnate svizzero, che era già stato prosciolto per prescrizione da una precedente accusa di disastro ambientale doloso, è accusato di omicidio involontario per la morte, avvenuta tra il 1989 e il 2014, di 258 persone a causa dell'amianto lavorato negli stabilimenti italiani della multinazionale. Siamo soddisfatti della decisione del giudice. Il tema del ne bis in idem lo avevamo sollevato noi, il commento di uno dei legali di Schmidaini. Dura la reazione di una delle parti civili, un cittadino di Casale Monferrato che ha perso la moglie nel 2000. Anche per oggi la buffonata è finita. Adesso ci vorranno anni soltanto perché possa riprendere l'udienza preliminare, ha dichiarato. Secondo il PM Raffaele Guariniello, la Procura di Torino approfitterà dell'allungamento dei tempi per contestare al magnate svizzero altri 94 casi di morti legati all'amianto, oltre a quelli già presenti al processo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Spostiamoci sulle notizie dall'estero, con questa svolta della Turchia nella lotta al sedicente califfato, all'ISIS, perché il governo Erdogan ha lanciato un'operazione anti-ISIS con dei raid in Siria. Sono morti 35 jihadisti e poi Erdogan ha promesso la base NATO di Irchilik sarà aperta agli Stati Uniti, ha detto questo soltanto il punto di partenza. Per la chiusura c'è lo sport, il Tour de France con la vittoria sulle Alpi di Vincenzo Nibali, un'impresa che riscatta il corridore siciliano che finora insomma non aveva ottenuto dei buoni risultati. Prima di lasciarci, giusto per una prima pausa per aggiornare chi sta viaggiando, è venerdì e molti staranno andando tra l'altro verso le loro vacanze, guardo brevemente i vostri messaggi. Vi dico che ieri il professor Bignami, molti mi hanno scritto, il professor Bignami cosa diceva ieri, che è distante la nostra terra dal sole 8 ore luce, no? 8 minuti, siete molto informati, può sfuggire, in Sudafrica eravamo anche molto distanti, non anni luce, ma insomma, e quindi qualche disguido poteva anche esserci anche nel parlare, insomma. Comunque ieri parlavamo della scoperta della nuova terra, della terra gemella, anche se abbiamo capito che le valigie, i preparativi, i traslochi non possono essere in vista perché è troppo lontana, 1400 anni luce sono, è parso veramente molto. Comunque invece per quanto riguarda i temi di questa sera, Dice un ascoltatore: ma che domanda è, quando ho chiesto siete favorevoli allora al fatto che si tolga l'IMU, che Renzi tolga l'IMU dall'anno prossimo, dice, che domanda è, chi non è contento di eliminare una tassa? Evidentemente questa ascoltatrice o ascoltatore non ha sentito le tante polemiche di questi giorni, ma anche quello che scrivono per esempio altri ascoltatori e ascoltatrici. Filippo: la tassa sulla casa è semplicemente immorale, dice. Poi Andrea: per l'IMU l'aveva già fatto Berlusconi. Roberto da Bergamo: sarebbe meglio partire da tasse sul lavoro e IRPEF, ma costerebbe troppo. E così anche molti altri che dicono che sarebbe meglio togliere le tasse sul lavoro. Anche Taddei qui a Effetto Notte più o meno ha detto questa cosa, che quella potrebbe essere la priorità. Però intanto voi continuate con i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666, mentre io vi ricordo tra l'altro che questa è l'ultima puntata della stagione, poi ci ritroviamo a settembre, quindi non perdete neanche un istante. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Stefano dice, a proposito della rivoluzione copernicana di Renzi, di cui parleremo tra poco facendo un po' il punto della settimana politica, dice: per l'ennesima volta assistiamo a un elenco di promesse irrealizzabili. Da dove si recuperano i soldi del taglio dell'IMU? Forse una mossa per nominare l'ennesimo super ultra mega commissario alla spending review, dopo che insomma, è sparito Cottarelli, in realtà è andato al Fondo Monetario Internazionale, insomma sembrava che facesse un buon lavoro qua e poi è fuggito nottetempo, o l'hanno fatto fuggire. Ilaria dice: no, questo l'avevo già letto. Invece un altro ascoltatore, anzi Elena, scusate, ascoltatrice, che dice: che dire a proposito dell'IMU, io ho pagato la prima rata della TASI 310 euro, poi pagherò il saldo altri 310 euro, l'IMU non la pago, la pagano quelli che come prima casa hanno un castello. Dunque poi ci andremo tra pochi istanti, intanto vi ricordo, se avete acceso la radio in questo momento, le notizie principali della giornata. Un inferno nella fabbrica di fuochi a Modugno, vicino Bari, 6 morti, all'inizio erano 7, ma adesso è arrivata poco fa l'agenzia che è stato rimodulato, diciamo così, il numero dei morti sono 6, lo scoppio a Modugno, una decina i feriti, 4 sono gravi. Poi caos dei trasporti a Roma, con Marino che azzera i vertici dell'ATAC, dell'azienda dei trasporti, e chiede scusa ai romani per i disagi e anche ai turisti. La Turchia che bombarda l'ISIS in Siria, arresti anche contro i curdi, una maxi operazione antiterrorismo di cui parleremo. Pompei chiusa a sorpresa, ne abbiamo appena trattato, per un'assemblea sindacale, turisti imbufaliti, 2000 in fila sotto il sole. Whirlpool, firmato l'accordo, Renzi dice missione compiuta, niente esuberi e investimenti, e quindi questa è una buona notizia. E poi ha confessato l'omicida della tabaccaia di Asti, un magazziniere di 46 anni tentava una rapina, e poi l'impresa di Nibali al Tour de France in solitaria ha vinto la tappa. E siamo a un bilancio della politica di questa settimana, come sempre, con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Ciao Fabrizio. Ciao, buonasera. Si comincia a sentire che sono stanca, qui ci vuole una pausa, ma insomma arriviamo. No, ma questa è una pessima notizia per me. Io il venerdì oramai era un appuntamento fisso, non saprò che fare nelle prossime settimane. Ah, io pensavo che fosse terribile la notizia che tu fossi fisso il venerdì, perché io lo blocco quando uno magari sta andando verso il suo meritato fine settimana dopo che ha lavorato tutta la settimana. Invece Fabrizio, quindi ci chiameremo comunque a distanza e faremo un bilancio delle settimane anche delle politiche. È stata un'altra settimana intensa. Per la politica. Molto intensa. Allora faccio il punto brevemente. Tu avrai pazienza, perché farò sentire anche qualche file, intanto tu puoi riflettere su tutto ciò che è successo. Beh, diciamo che due temi principali questa settimana sono stati la telenovela, anche se per carità ha avuto dei risvolti drammatici, delle presunte intercettazioni tra il presidente della Sicilia Rosario Crocetta e il primario suo amico medico Matteo Tutino, di cui abbiamo parlato molto diffusamente qui a Effetto Notte da due settimane a questa parte, anche con i protagonisti, Crocetta stesso qui a Effetto Notte, il suo avvocato, l'Espresso, ieri c'era Gigi Riva, caporedattore centrale dell'Espresso. Poi l'altro argomento principale è l'annuncio di Renzi sulla prossima avventura rivoluzione copernicana del fisco, e poi abbiamo sentito infiniti guai del sindaco Marino e anche quindi di Roma, l'addio di Verdini a Berlusconi, e poi anche l'unione civile, che è stato un tema molto dibattuto, e si è capito che la questione sono le coperture economiche più che una questione culturale, ideologica, insomma. Comunque partiamo dalla vicenda delle presunte intercettazioni, che ancora dobbiamo chiamare così, molto sinteticamente, anche se ormai la conoscerete a memoria, l'ho spiegata tante volte, ma non do mai niente per scontato, Fabrizio Forché, perché tu sai che centinaia e centinaia di migliaia di nuovi nuovi ascoltatrici e ascoltatori ogni sera, effetto notte ci sono, quindi non bisogna dare per scontato che sappiano tutto. Allora, quindi c'è stata quella rivelazione bomba la scorsa settimana dell'Espresso, diciamo così, anche se in ogni caso non ci sarebbe una rilevanza penale, con sulla telefonata tra Tutino, il medico, e Crocetta, relativa a Lucia Borsellino, con Tutino che diceva va fatta fuori come suo padre e Crocetta che non avrebbe risposto, non avrebbe reagito. Crocetta quindi finisce nella bufera, attaccato da più parti e soprattutto anche dal suo partito PD, che ne chiede le dimissioni. Lui allora si autosospende, poi arrivano però le smentite sull'esistenza di queste intercettazioni sia da parte della procura di Palermo, sia poi, dopo qualche giorno, anche dalla procura di Caltanissetta. Crocetta allora torna a ricoprire il suo ruolo e intanto il suo avvocato Vincenzo Lore, che appunto l'aveva anticipato anche qui effetto notte, chiede un risarcimento danni all'Espresso di 10 milioni di euro. Crocetta qui effetto notte, dopo la smentita anche, dicevamo, della procura di Caltanissetta, si sfoga in un quarto d'ora, 20 minuti di chiacchierata che abbiamo fatto. Sentiamo due passaggi brevi. Soltanto spazzatura, e quella stessa spazzatura la deve mostrare, la deve portare alla Procura della Repubblica, perché questo è un attentato a un organo costituzionale dello Stato. Non ci si può trincerare dopo il dietro il fatto che il giornalista può segretare la propria fonte di informazione, e lo deve agli italiani. Sentiamo anche un altro pezzettino della lunga chiacchierata, quello sulla bufala presa dall'Espresso secondo Crocetta, e che quindi bisogna insorgere. In un paese democratico chi decide se una persona è responsabile o colpevole è soltanto il giudizio dei magistrati. Non possono essere le accuse gratuite inventate di chiunque, e non può essere sicuramente un giornale che magari non vuole ammettere una bufala soltanto per mantenere la reputazione a dettare una linea politica. Questo sarebbe veramente grave. I fatti parlano. Se questo viene fatto nei confronti di un presidente di regione, figurarsi cosa può capitare a qualsiasi normale cittadino. È venuto veramente il momento persino di insorgere contro queste schifezze. Crocetta qui effetto notte, ha detto anche molte altre cose, che chiede una commissione d'inchiesta, adesso si è aperta un'inchiesta giudiziaria, insomma. E l'Espresso in queste due settimane però non ha fatto altro che ribadire l'esistenza di queste intercettazioni, e proprio ieri qui effetto notte in collegamento c'era Gigi Riva, che è caporedattore centrale dell'Espresso, che ha nuovamente confermato. I nostri due cronisti, hanno sentito questa intercettazione per ben due volte e hanno verificato questa intercettazione con diverse fonti investigative, non solo con la persona che gliel'ha fatta ascoltare. Quindi abbiamo fatto un lavoro giornalistico di incrocio che capiamo benissimo ha una debolezza, perché l'intercettazione, ma perché, Gigi, non possiamo esibirla. Perché non potete esibirla? Questa è la domanda. Non possiamo esibirla perché non ce l'abbiamo, l'abbiamo sentita ma non ce l'abbiamo. È un bel problema. Per chiunque faccia questo mestiere, è chiaro che ci sono alcune volte che le fonti ti fanno sentire un'intercettazione ma non te la consegnano direttamente. E a questo punto, Fabrizio Forché, che pensi tu? Ma evidentemente non si può, voglio dire, non credere a quello che dicono i colleghi, sono colleghi di esperienza, colleghi importanti. Io non credo che si possano essere inventati tutta questa vicenda. È evidente che loro non hanno niente in mano, è probabile che le abbiano ascoltate presso, magari non appunto presso la magistratura che nega l'esistenza di questo materiale, ma presso gli investigatori, la polizia giudiziaria. E quindi, come dire, in parte hanno tutti ragione, hanno ragione i magistrati che dicono che queste cose non esistono agli atti, ma i giornalisti evidentemente le hanno ascoltate. Io temo che questa vicenda possa da una parte gettare, come dire, una luce sinistra ancora sul meccanismo dell'intercettazione, della pubblicazione delle intercettazioni, e possa dare campo alla politica per intervenire in maniera troppo forte poi nel proibire la pubblicazione delle intercettazioni, che sarebbe secondo me un errore, va sicuramente rispettata la privacy delle persone, ma non va messo nessun bavaglio, le notizie vanno pubblicate, anche le intercettazioni, se sono rilevanti pubblicamente o per un valore politico o per un valore giudiziario, è giusto che venga tutto secondo me pubblicato. I bavagli non esistono, nel rispetto della privacy della persona che non sono coinvolte nell'indagine e che non hanno una rilevanza pubblica, come devo dire in senso autocritico alle volte in passato è successo. Sulla vicenda siciliana specifica però fammi dire, io ho l'impressione sì. che questa vicenda di Crocetta poi c'entra poco con l'intercettazione, con la vicenda giudiziaria, ma insomma qui il problema è politico ovviamente, insomma non è l'intercettazione pubblicata dall'Espresso, è quanto Crocetta è ancora sostenuto dal PD siciliano, dalla sua maggioranza. Ma mi sembra che sia sostenuto, perché ieri Cracolici, se non sbaglio, il segretario o il presidente del Consiglio, adesso non ricordo, però il più alto esponente del PD sì. lì all'Assemblea siciliana, il segretario del PD siciliano. Ecco, ha detto questa patacca ha infangato Crocetta, ma tutta la Sicilia adesso ripartiamo. Quindi per il momento mi sembra che sì, però nello stesso tempo Renzi da Roma ha detto se è in grado di governare governi o se non si fa la parte. Ce l'abbiamo, guarda, l'hai citato. Vai. E lo facciamo sentire. Eccolo. Si occupino delle cose concrete, mettano a posto le loro città, sistemino la sanità della loro regione, come nel caso della Sicilia, e finalmente si smetta tutti i giorni di guardare strani e complicati giochi politici. Se sono in grado di governare, governi, se no che vadano a casa. L'hai evocato, parlava di Marino e di Crocetta, diciamo due grossi problemi che ha in questo momento Renzi, non solo loro. Sono due grossi problemi che ha, che evidentemente ha difficoltà però ad affrontare, devo dire. Renzi non è la prima volta che pronuncia questa frase, devo dire, in relazione più a Marino finora. Che a Crocetta. Però è almeno un mese che ripete questa frase in relazione a Marino e evidenzia comunque una difficoltà ad affrontare questa situazione. In realtà, più che dire se l'ennesima volta se in grado di governare governi, se non si faccia da parte, Renzi a questo punto dovrebbe dire faccia da parte oppure governi. A questo proposito, Fabrizio Forchè, volevo passare alla rivoluzione copernicana, ma prima allora restiamo su Marino, effettivamente, visto in questi giorni questo, fra gli altri guai, il collasso dei trasporti pubblici romani, no? E quindi ha visto azzerato i vertici dell'ATAC. Ma io devo dire che Marino è l'uomo più resistente al mondo, nel senso che un altro al posto suo o se ne sarebbe andato, avrebbe avuto un esaurimento nervoso, neanche un capello bianco mi sembra di aver visto, non so. Non so se ha fatto i capelli bianchi, però sì. Sicuramente sta resistendo come un leone. Temo che queste reazioni siano in parte tardive. Marino non è responsabile del disastro dell'ATAC, sarebbe assurdo affermarlo, certo. Però sono 2 anni e passa oramai che è sindaco, insomma arrivare ora a prendere provvedimenti draconiani quando per 2 anni comunque la situazione non è stata risolta ma anzi è progressivamente aggravata, è chiaro che sembra un poco voler mascherare anche in qualche modo un fallimento personale nella gestione non solo dell'ATAC ma in generale, come abbiamo visto poi anche nelle inchieste, dei servizi pubblici romani. Però Fabrizio, anche qui Renzi dovrebbe forse dare una parola di un segnale chiaro. Ha dato un segnale più o meno chiaro sulla questione delle tasse. Sentiamolo che cosa ha detto all'assemblea del PD che si è tenuta all'Expo in modo piuttosto enfatico, e poi sentiamo che cosa ha detto Filippo Taddei, che è consigliere economico di Renzi qui a Effetto Notte. Nel 2016 elimineremo noi, perché gli altri hanno fatto la finta, lo hanno detto e poi lo hanno rimesso, la tassa sulla prima casa, l'IMU agricola e l'IMU sugli imbollunati. Nel 2017 interverremo sull'IRES e sull'IRAP per sostenere la competitività dell'azienda e nel 2018, questo sì, prima della campagna elettorale, la conclusione di questo percorso con gli interventi sugli scaglioni IRPEF e sulle pensioni. Mantenendo la curva del debito un po' meno forte di quello che dice il Fiscal Compact, intervenendo con 20 miliardi di euro sugli investimenti che già ci sono, il mio impegno qui di fronte a voi è quello di fare per 5 anni un impegno di riduzione delle tasse che non ha paragoni nella storia repubblicana di questo Paese. Questo è il PD che può realizzare una rivoluzione copernicana. Come ben noto sono un grande sostenitore della riduzione delle tasse sul lavoro, piuttosto che delle tasse sugli immobili. Adesso vedremo come saranno fatti i dettagli. È oggetto di dibattito in questo momento. Io, guardi, dal mio punto di vista io sono sempre quello che mette in cima la riduzione delle tasse sul lavoro, quindi non potrei essere più d'accordo. Però dico con assoluta tranquillità che se si vuole fare anche un investimento per la riduzione del carico fiscale sulla prima casa, e questa è la sensibilità del Presidente del Consiglio, quell'investimento è compatibile, anzi deve essere compatibile con una riduzione che continua nel tempo, esattamente come ci siamo impegnati a fare, di tutto quello che è il gravame, le tasse che gravano sul lavoro. Quindi Fabrizio Forché, ho sentito l'annuncio roboante di Renzi, questa rivoluzione copernicana mai avuta nella Repubblica Italiana, e poi Taddei il giorno dopo questo annuncio qui a effetto notte forse ha messo un po' le mani avanti. Infatti ultimamente si è raddrizzato un po' il tiro su questa cosa della priorità di levare l'IMU. Poi qualcuno chiede, ma è l'IMU, il TASI? Ormai non si capisce più niente di cosa viene levato sulla prima casa, no? Dal 2016. No, in effetti è l'IMU sulla prima casa. Io credo, noi domani abbiamo un'intervista al sottosegretario Zanetti, sottosegretario all'economia, sì, che prende una posizione analoga a questa di Taddei. In effetti la priorità in questo paese è ridurre le tasse sul lavoro e sulle imprese, io credo, perché poi il grande problema è quella, è la creazione dei posti di lavoro, per cui tu meno pesi fiscalmente sulla creazione dei posti di lavoro e più hai la possibilità evidentemente di rilanciare l'occupazione in Italia. È vero che ridurre sulle tasse su imprese e lavoro lo devi fare per una quota sufficientemente ampia da creare un impatto, però un impatto positivo. In qualche modo togliere l'IMU sulla prima casa costa relativamente poco, costa probabilmente meno in quest'anno di quanto sarebbe un intervento forte e significativo sul costo del lavoro, ed è probabile che in questa scansione temporale che ha annunciato Renzi pesa anche questa valutazione. Quest'anno, in questa legge di stabilità, Renzi non ha grandi margini finanziari da poter utilizzare, perché c'è già da disinnescare la clausola di salvaguardia sull'IVA, cioè non fare aumentare l'IVA, e già per questo Renzi deve impiegare ben 16 miliardi, per cui è chiaro che trovare risorse per riduzioni fiscali ulteriori è molto difficile. Fare riferimento alla tassa sulla prima casa fa riferimento a un intervento molto molto popolare, perché riguarda tutti ed è una tassa che è odiata da tutti gli italiani. Però forse non è equo levarla proprio a tutti, no? Questa sì, è una vecchia discussione. Ci sono probabilmente interventi più prioritari. Probabilmente tu potresti tranquillamente pagare la tassa sulla casa con quello che guadagni, no? A Radio 24. Io? Voglio. Anche su un castello, no. Volendo, sì, non ci sono problemi. Sicuramente ci sono forse delle priorità, sì. Delle priorità appunto. No, più ma urgenti, tra l'altro molti ascoltatori e ascoltatrici questa settimana hanno scritto: preferiamo pagare la tassa sulla casa che vedere invece degli interventi su altri ambiti, diciamo, sì, più. Sì, però al di là di queste valutazioni, che io mi sento anche di condividere, devi considerare quanto questa tassa comunque generalmente odiata dagli italiani. Berlusconi ci ha vinto le elezioni. Anche se esiste in molte altre nazioni, anche in Europa e all'estero, non solo in Europa. Infatti, no? questo è un altro dei problemi, perché comunque tu, anche per togliere l'IMU che vale circa 4 miliardi, quindi non è una cifra eccessiva, ma per potertelo permettere devi comunque andare a negoziare una certa flessibilità sul rapporto deficit PIL in Europa, e in Europa questa flessibilità te la garantiscono con molto maggiore favore se tu la utilizzi per ridurre appunto tasse sul lavoro, per togliere le tasse sugli immobili. Quindi questo sarà un po' un problema. Vediamo se l'estate gli porta consiglio, caro Fabrizio Forché. Buona estate a te intanto. Vediamo, anche a voi. Ciao Fabrizio. Ciao Marco. Prendiamoci questa pausa di ricreazione. Franco da Genova: Pompei non è una democrazia, ma una dittatura dei sindacati. A tra poco. Effetto notte. Le notizie in 60 minuti. Allora, abbiamo fatto il punto sulla politica. Roberta Giordano sempre con voi, i vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Adesso vi ricordo le notizie in breve, perché poi dobbiamo parlare di Turchia, dell'omicidio della povera tabaccaia, del meteo, di un sacco di cose. La tragedia di Bari: esplode una fabbrica di fuochi d'artificio, le vittime sono 6, diversi i feriti anche gravi. La tabaccaia uccisa ad Asti, il suo assassino confessa, è un uomo incensurato, movente dell'omicidio sarebbe la rapina. Roma: il sindaco Marino si scusa per il caos trasporti con i cittadini e i turisti e caccia l'assessore ai vertici ATAC. Pompei chiusa per assemblea, restano fuori dall'ingresso 2000 turisti, il ministro Franceschini commenta, è un danno incalcolabile per l'Italia. Guerra terrorismo: la Turchia lancia l'operazione anti-ISIS, 35 jihadisti uccisi, e per il ciclismo al Tour de France Nibali si riscatta e vince in solitaria la Tissur, la 19ª tappa. Passiamo a un tema di esteri adesso, e direi che sicuramente oggi in primo piano dall'estero c'è senz'altro la Turchia. Perché la notizia è questa: per la prima volta Ankara risponde al terrorismo islamico. Finora sapete che aveva mantenuto una posizione, insomma, poco chiara, un po' ambigua, è stata più volte anche criticata la Turchia per questo atteggiamento ambivalente. Non chiaro, bene, per la prima volta oggi i ricaccia turchi hanno condotto dei raid contro l'ISIS nel nord della Siria, bombardando diversi obiettivi in rappresaglia all'attacco dei mujahideen che c'era stato ieri contro una postazione militare. Quindi il governo turco aveva in realtà già lanciato un avvertimento, un ammonimento, aveva detto: ci riserviamo il diritto di assumere tutte le misure necessarie per proteggere la nostra sicurezza. Questo l'aveva detto alcune ore prima di questi raid aerei. E una dichiarazione che era arrivata dopo l'attacco islamista a Kilis, la strage dei giovani a Suruk, vi ricordate, con quel selfie che in questi giorni si è visto passare su Twitter, poi il governo di Erdogan l'aveva censurato, e poi c'erano state una serie di agguati di guerriglieri curdi. I media turchi fanno sapere che in questi raid sono stati uccisi almeno 35 militanti dell'ISIS nei bombardamenti dei caccia F-16 turchi, e sono stati anche colpiti alcuni bersagli dell'ISIS in Siria. Quindi insomma, ne parliamo con Valeria Talbot, responsabile dell'Osservatorio sul Mediterraneo e Medio Oriente dell'ISPI. Buonasera Valeria. Buonasera a voi. Dicevo, insomma, c'è stata quindi una svolta, si può parlare di una svolta da parte della Turchia, anche perché ha concesso tra l'altro la base agli Stati Uniti, che chiedevano, se non sbaglio, da tempo, per poter avere lì un punto di riferimento, no? Sempre nella battaglia contro il sedicente Stato Islamico. La svolta c'è stata, e la svolta è stata da un lato sì frutto di una reazione dura, ferma, decisa del governo turco all'attentato di Suruç, ma allo stesso tempo è una svolta che rappresenta un cambio di strategia già da alcuni mesi adottato dal governo di Erdogan, sia sul piano interno sia sul piano esterno. Sul piano interno la Turchia ha finalmente preso consapevolezza del fatto che il suo territorio è diventato serbatoio di reclutamento per i terroristi dell'ISIS, nonché base logistica, quindi sradicare le cellule e i gruppi terroristici è diventato un obiettivo prioritario. Allo stesso tempo sul piano esterno, in ambito regionale, la Turchia ha assunto appunto con questi attacchi un ruolo più assertivo, ma già da inizio luglio vi era stato l'accordo con gli Stati Uniti, accordo che è stato reso noto in questi giorni, per l'utilizzo della base aerea di Incirlik nell'Anatolia meridionale per condurre operazioni militari, attacchi militari da parte della coalizione anti-ISIS a guida americana. Sì, va questo detto cambia. Che Erdogan, Presidente, ha detto questo è solo il primo passo di una battaglia che continuerà, quindi sembrerebbe appunto che sia una linea presa a questo punto in modo deciso. Però oltre a queste incursioni aeree, queste operazioni, questi blitz nei confronti dell'ISIS, ci sono state anche operazioni di rastrellamento contro presunti militanti islamici e anche curdi, perché mentre da settimane l'esercito turco ha concentrato migliaia di uomini e mezzi in vista di una possibile offensiva nella parte settentrionale della Siria, bisogna dire che questa cosa ha in realtà un duplice obiettivo, mi pare, Valeria Talbot, cioè da una parte ridurre lo spazio di manovra appunto dell'ISIS, evitare che avanzi, però c'è anche questa intenzione di impedire i curdi, che sono protagonisti dell'offensiva contro lo Stato Islamico. Si parla anche molto spesso, ci sono le donne curde in prima linea contro l'ISIS, che hanno un grande coraggio, ma questa operazione del governo Erdogan ha anche lo scopo proprio di restringere un po' lo spazio dei curdi, quindi c'è sempre anche quest'altro fronte, no? Senz'altro il fattore curdo ha un'importanza chiave nel calcolo di Ankara, perché appunto ridurre gli spazi dei curdi siriani, evitare anche un rafforzamento della componente curdo-siriana, proprio per evitare la formazione di un'autonomia che poi possa portare ad uno Stato indipendente nel nord della Siria, che potrebbe fungere da catalizzatore per l'ampia minoranza curda di Turchia. Quindi anche evitare che i curdi siriani abbiano tutto il merito di stoppare l'avanzata dell'ISIS nel nord della Siria. Quindi questo sembrerebbe appunto così a prima vista un paradosso, no? Dice come i curdi sono tra i più coraggiosi combattenti nei confronti dello Stato islamico, però allo stesso tempo la Turchia, con questa annosa questione dei rapporti con i curdi, continua a avere paura che poi creino uno spazio, un territorio di autonomia. Questo che spiega Valeria Talbot. Evitare appunto la formazione di una fascia di autonomie o comunque di stati indipendenti ai confini della Turchia, dall'Iraq alla Siria, è un obiettivo prioritario della Turchia, obiettivo portato avanti già dal 2003, dall'invasione anglo-americana dell'Iraq, che ha indebolito lo Stato centrale iracheno e rafforzato l'autonomia del Kurdistan iracheno, tra l'altro Kurdistan iracheno che oggi è tra i principali alleati di Ankara, principale partner commerciale nell'area. Grazie Valeria Talbot di questa analisi. Grazie a voi, buona serata. Grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Ve ne ricordo brevemente le notizie prima di passare ai prossimi temi, l'Europa e poi parleremo dell'omicidio della tabaccaia di Asti, il meteo. Fra le notizie più importanti, questo scoppio che c'è stato a Modugno, vicino Bari, di una fabbrica di fuochi artificiali, sono 6 morti e poi diversi feriti, una decina, 4 sono gravi. Il caos dei trasporti a Roma, Marino che azzera i vertici dell'ATA, che chiede scusa ai romani e ai turisti, la Turchia che decide di attaccare l'ISIS in Siria e bombardato con i suoi caccia, Pompei chiusa a sorpresa per un'assemblea sindacale, ne abbiamo parlato, una buona notizia per Whirlpool e per i lavoratori, firmato l'accordo, Renzi dice missione compiuta, e poi ancora la vicenda appunto della tabaccaia di Asti, ha confessato l'omicida, era stato un tentativo di rapina, e per chiudere l'impresa di Nibali al Tour de France, vince in solitaria alla Tour. Europa 24 notte. Per l'Europa parliamo di rivoluzione digitale, IVA, banda larga, copyright, la strategia digitale europea punta al mercato unico europeo. Oggi il 42% degli acquisti è costituito dai servizi online nazionali, ma oltre il 50% sono prodotti e servizi americani. Nel 2014 solo il 15% degli europei ha acquistato online in uno degli stati dell'Unione e solo il 7% delle piccole e medie imprese ha venduto fuori dal suo paese. La partita del mercato unico digitale europeo è entrata nel vivo e promette una rivoluzione a 360 gradi, dalla rivoluzione dell'IVA agli investimenti nella banda larga, dal copyright alla fine del blocco degli acquisti in altri paesi europei. Questo è l'obiettivo della strategia UE che entro la fine del 2016 dovrà portare alla realizzazione del mercato unico digitale europeo. La fotografia dell'attuale mercato digitale vede un 42% costituito da servizi online nazionali e oltre la metà, il 54%, da servizi online USA come Facebook, Google o Apple. I servizi europei disponibili sono invece appena il 4% del mercato. Nel 2014 solo il 15% dei consumatori UE ha comprato online in un altro stato dei 28 e solo il 7% delle piccole e medie imprese ha venduto fuori dal suo paese. Ben una volta su due i consumatori UE non riescono ad acquistare a causa del geoblocking, il blocco geografico che scatta, per esempio, quando si cerca di comprare app o affittare auto o film in uno store che non è quello del paese di residenza. Roberto Viola, vice direttore generale della DG Connect, spiega perché l'Europa non può permettersi di perdere questa partita. Io credo che siamo di fronte a una nuova rivoluzione industriale e ne abbiamo già viste nella storia dell'umanità e questa è probabilmente la quarta. E forse quella che cambierà di più le cose. Internet come tecnologia ha cambiato tutto, ha cambiato il modo con cui noi accediamo alle informazioni, alla conoscenza, il modo in cui lavoriamo, il modo in cui le imprese scambiano beni e servizi e questo ovviamente è una grandissima opportunità per l'Europa, per l'Italia, ma è anche una grandissima sfida. L'Europa è partita in ritardo sul digitale, su internet, questo senza dubbio, ma certo l'Europa ha le possibilità per recuperare. la lista delle misure chiave che dovranno essere prese entro la fine del 2016, in discussione proprio in questi mesi, è molto lunga. Sono in arrivo nuove regole contrattuali per gli acquisti online, sia di prodotti reali, dai vestiti agli elettrodomestici, che virtuali, app, film, musica, ebook. Una revisione della protezione dei consumatori e nuove norme contro i costi eccessivi delle spedizioni via corriere. Oltre alla fine del geoblocking, ingiustificato, e un copyright rivisto, tra gli obiettivi c'è anche quello di facilitare la vendita dei diritti per il settore creativo ed estendere la direttiva su cavo e satellite ad alcuni servizi online simili. Altro punto chiave è la revisione dell'IVA per armonizzarla tra i 28 e i paesi extra UE e tra i prodotti fisici online come gli ebook. La rivoluzione digitale, o meglio, l'evoluzione digitale nella sua urgenza e necessità, ha bisogno di grande impegno da parte di tutti gli attori. Per l'Unione Europea è necessario arrivare ad avere un quadro normativo che contribuisca a una connettività dei dati mobili senza confini e a un accesso semplificato alle informazioni e ai contenuti, pur tutelando allo stesso tempo la vita privata, i dati personali, la sicurezza informatica e la neutralità della rete. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Siamo adesso sul caso della povera tabaccaia uccisa ad Asti il 4 luglio scorso con 44 coltellate, Maria Luisa Fassi, nella sua tabaccheria. È stato preso l'assassino, ha confessato, si chiama Pasqualino Folletto, 46 anni, incensurato, e pare che il movente fosse dell'omicidio la rapina. Ne parliamo con Franco Binello, che è giornalista del quotidiano La Stampa, conosce bene la storia. Franco, vero? Sì, buonasera, confermo quello che è stato detto in premessa. È assolutamente un insospettabile, incensurato, magazziniere, sposato, con tre figli in tenera età, e reo confesso, è crollato di fronte agli inquirenti del colonnello Fabio Federici, comandante provinciale dell'arma, con gli specialisti del ROS, del reparto crimini violenti, e del PM Luciano Tarditi. Lo hanno convocato in caserma verso le 13 come una semplice persona informata dei fatti. I carabinieri in queste tre settimane, perché domani saranno esattamente tre settimane dalla tragica rapina, hanno fatto uno screening di tutti i passaggi di auto e persone in quella fascia di orario. Da 400 persone il cerchio si è ristretto inizialmente a una decina, poi a tre, poi i sospetti si sono incentrati su Folletto, che è stato, ripeto, invitato in caserma per chiedergli conto di che cosa avesse fatto in quei minuti in cui era stato visto transitare e fermarsi in zona. E di fronte alle domande poi diventate sempre più incalzanti e alle argomentazioni, tra cui anche alcune immagini di una telecamera di videosorveglianza di una vicina pizzeria, a un certo punto è crollato e ha ammesso di essere lui l'autore della rapina, di aver arraffato 800 euro, ha detto l'ho fatto per i miei bimbi, ed è scoppiato in lacrime. Beh, ed è stato risolto così il caso. Ti ringrazio, Franco Binello. Purtroppo abbiamo poco tempo, però davvero sono state fatte tante ipotesi, perché non si immaginava che fosse solo per una rapina 800 euro, 44 coltellate a questa povera donna. Grazie Franco Binello della Stampa, ciao. Prego, ciao, buona serata. Ora abbiamo Paolo Corazon, che ha ben 35 secondi per dirci se il tempo cambierà, come andrà, caro Paolo. Buonasera Roberta, guarda, parliamo solo del caldo, caldo che ha insistito in questi giorni, ma alle ore contate, già nella giornata di domani arriveranno dei temporali al nord, alla fine di domani, domenica al nord temperature sotto i 30 gradi come non accadeva da almeno 20 giorni, piano piano calano domenica anche nelle regioni centrali, con qualche acquazzone però specie sul versante adriatico, ancora caldo al sud dove anche se settimana prossima raggiungeremo temperature elevate. Comunque guarda, agosto farà il suo dovere di mese estivo, siamo tranquilli, sarà un bel mese per tutti. Evviva, evviva anche il caldo, visto che estate. Grazie Paolo Corazon, buon estate a te. Grazie, ciao ciao. Ciao Paolo, ci sentiamo alle 22.